abolisce la residenza abituale dei figli minori, costringendoli a una frequentazione paritetica tra i genitori, indipendentemente dalla determinazione di una fascia d'età. Sicuramente prevede la cancellazione dell'assegno di mantenimento per i figli, sicuramente prevede l'abolizione di un habitat prevalente, quindi addirittura l'obbligo del pagamento dell'affitto da parte del genitore che rimane nella casa familiare all'altro genitore. Prevede una medicalizzazione della fase separativa, c'è l'obbligo di rivolgersi a un mediatore familiare che potrà essere uno psicologo, uno psichiatra, servizio sociale, anche un avvocato, ma non di andare direttamente dal giudice a chiedere l'autorizzazione a vivere separati. Introduce la sindrome di alienazione parentale che a livello internazionale è stata dichiarata inesistente, obbligando il figlio che rifiuta un genitore ad allontanarsi da quello che invece vorrebbe frequentare, con il rischio addirittura di essere poi introdotto in una comunità o in una famiglia affidataria, e la colpevolizzazione del genitore voluto da parte sempre del DDL, che addirittura può essere soggetto a risarcimento del danno. L'introduzione dell'obbligo per il genitore che vuole separarsi di perdere l'autonomia decisionale del piano genitoriale, e questa è la cosa veramente gravissima, tutti dei soldatini che dovranno rivolgersi a un terzo, l'eliminazione della giurisdizione nel governo della famiglia, e in più questa è la chicca del forte, debole sesso maschile, l'eliminazione dell'assegno di mantenimento per i figli, ma anche del reato che puniva chi non manteneva i figli, che era stato anche fortemente voluto dopo l'applicazione della Convenzione di Istanbul dal nostro Stato. La violenza economica quindi non verrà punita, la violenza psicologica forse dovrà essere certificata, perché altrimenti verrà introdotta, che è sempre vietata dalla Convenzione di Istanbul, la mediazione come obbligatoria anche nei casi di violenza. L'ultima chicca è quella di cancellare il ruolo del materno, anche nelle prime fasi di attaccamento, e quindi probabilmente considerare la donna una macchina partoriente che non ha un legame con il nascituro. Alcune di queste cose, molte di queste cose, insomma, hanno dubbi di costituzionalità. Sì, e li faremo valere se non ritireranno subito questo DDL.